fossi ciò, viene lento di vagare, una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. La peggior categoria di maschi che possa esistere è quella di coloro che simulano di stare dalla parte delle donne. Terrificanti, gli amici delle donne, i confidenti delle donne, i maschi carini, i maschi carezzevoli, i maschi docili, i maschi che aiutano le loro amiche a districarsi nei problemi della vita, sono quelli che sottilmente seminano un veleno sottile e inesorabile nei confronti dei loro affini di genere. Beh, questa mattina farò qualcosa di simile, non stando dalla parte delle donne, non me ne importa assolutamente nulla di stare dalla parte di nessuno, e mai più nella vita starò dalla parte di qualcuno, ammesso che mai sia stato dalla parte di qualcuno nella mia lunga e travagliata esistenza. Però questa mattina vorrei fare una trasmissione sugli uomini, vorrei convincere e esortare, istigare, sedurre le mie ascoltatrici affinché parlino degli uomini, ma ne parlino male, ne parlino in maniera crudele, ne parlino in maniera disincantata, ne parlino come ne parlano quando sono tra donne, come ne parlano i loro peggiori pensieri, come ne parlano quando piangono davanti allo specchio, come ne parlano quando si commuovono e rimpiangono gli anni passati accanto a quel caccoloso, schifoso, grasso maschio che una volta, forse probabilmente nella vita, le ha fatte palpitare. Mi piace la tua voce, il tuo corpo, la tua mente. Mi piace profumo, tabacco e caffè. Mi piace ni baffa, cinduro o gilet. Mi piace tranviere che mi porta a casa mia. Mi piace operaio che aggiusta la via. Mi piace lo sportivo che andando all'attore. Mi piacciono tutte, non mi importa che fa. Mi basta che non. Non qua, ancora qua. Beh, mi sembra che la domanda sia chiara: chi non risponde infame, chi non risponde tradisce l'essere donna, chi non risponde perde una grande occasione per fare spettacolo col proprio disprezzo, col proprio rimpianto, anche con la propria gratitudine. Donne, parlatemi degli uomini questa mattina. Perché? Perché mi carezza le orecchie sentire donne che parlano degli uomini, perché mi illudo che anche io possa essere in questa lunga rassegna di uomini depravati, di uomini meschini, uomini schifosi, che nonostante tutto in fondo facciamo parte di quel residuo avanti di genere maschile che ancora galleggia su questo universo. Mi hanno chiesto che cosa deve fare un uomo per conquistare Teresa Mannino e ho detto: mi deve fare tanto ridere. Mai una che dicesse: mi deve fare tanto godere. Ma come sono fatti? Non lo so. Però poi mi hanno chiesto: come mai non faccio mai battute sugli uomini, no? Perché secondo me le rompipalle siamo noi donne. Perché noi donne effettivamente facciamo sempre domande, no? Sempre domande. La domanda più antipatica che facciamo, che non dovremmo mai fare, che quando la facciamo agli uomini ci odiano, è: a che cosa stai pensando? Anche perché di solito quelli non pensano a niente. Amore, andiamo di là a farci le coccole. E lui che cosa risponde? Sono stanco. Stanco. E non è che ti ho chiesto di fare un trasloco, solo un muscolo devi muovere. Altro luogo comune su cui le donne si confidano tra loro, su cui le donne riempiono le rubriche dei settimanali femminili, ma anche quelli maschili, su cui le donne passano gran parte della loro esistenza fruibile in attimi di profonda e soddisfacente libertà, stese sul lettino di uno psicanalista a cui lasciano gran parte dei loro stipendi, perché possa loro capire cosa mai abbiano di sbagliato, perché un uomo non le gratifica come loro vorrebbero essere gratificate. Beh, questa mattina avete una grande occasione, donne, parlate, raccontate, dite, descrivete, denigrate, esaltate, idolatrate, insomma, parlate degli uomini che avete accanto. Buongiorno, facciamo entrare Gianni. Mi sono riposato, ho mangiato la mia mamma, polpette, orecchiette come ogni anno e forse si vedono quest'anno. Ciao, sono Marco e faccio l'istruttore in scuola guida. È un ragazzo responsabile. Una gran bella persona. È molto professionale. È tremendo. Sono la mamma, per me è bellissimo. Le persone che non mi conoscono mi reputano una persona molto tirata. C'è chi dice addirittura montatello. Ma si sbagliano completamente. Sono una persona molto sincera, socievole, solare, molto allegra. Mi scrive Carmen su Facebook: a me gli uomini mi piacciono. E ha ragione, se a lei gli uomini piacciono, lei è fortunata. Descriva la formula della felicità, della soddisfazione, del piacere. Descriva la maniera attraverso cui riesce a avere soddisfazione del genere maschile che ha intorno, che è accanto. La descriva, ce la dia, ce la regali. Ce ne faccio omaggio. Anche noi vorremmo capire come si fa a piacere alle donne, come si fa a non essere sempre accusati di questa infingardaggine, questa infamità di essere schiavi dei propri pensieri, schiavi delle proprie frustrazioni, schiavi dei condizionamenti materni. Sentite, i tronisti l'avete sentito. È la rassegna maschile che dovrebbe essere all'apice dell'accettabilità, della desirabilità e della concupiscenza femminile. Stanno lì tronfi, contenti, felici, spaparanzati sui loro troni, idolatrati da almeno 3 generazioni di donne, dalle vecchie urlanti, dalle massaie intermedie, dalle grasse frequentatrici del territorio di Maria di Filippi, e poi dalle fanciulle tenere, belle, appetitose, sufficientemente innestate di materia siliconica per essere al passo coi tempi. Stanno lì e prendono tutte le loro labbra tumide e dai loro orecchini, dai loro tatuaggi, dai loro toraci depilati. Quelli sono gli uomini che oggi rappresentano il successo, ma sono quelli gli uomini che voi volete? Nella mia vita ho avuto una storia importante, anche se credo di non essere mai stato innamorato. L'età non conta, ho avuto pure storie con ragazze più grandi, mi sta bene dai 23 ai 35, non è importante l'età, è importante come ragiona e il suo modo di fare. La ragazza ideale per me, secondo me, deve essere alta, molto semplice, ma allo stesso tempo molto curata, formosa, con tutte le curve a posto, come si suol dire. Deve essere un femminone, non ci possiamo sbagliare su questo. Deve essere un femminone, così la vuole, bella, gonfiata, sorridente, tranquilla, seducente, è sensuale, è remissiva. E lui sta lì sul trono, il reuccio, il principino, al centro di tutta l'attenzione mediatica. Può scegliere e fa bene, perché poi ha un campionario vastissimo, c'è una coda infinita, c'è una grande attesa nei confronti del tronista. Esempio immarcescibile e fulgido di maschio contemporaneo. 800240024, cominciate ad elencare i maschi che avete accanto, descriveteli, fatene una vivisezione, fatene una profonda analisi, ma fatela soprattutto al telefono, perché aspettiamo, come farebbe comunque Sofia. Buongiorno Sofia. Buongiorno. Sono qua, taglia 42, perfetta, sposata da 57 anni. Voglio dire, credo che un uomo intelligente possa fare la sua e la felicità della persona che gli sta vicino, ma con tutti i difetti del mondo, perché i nostri difetti in tutti questi anni si sono, diciamo, rivelati tutti, ma poi con l'amore diventano virtù, diciamo. Quindi lei ha plasmato l'uomo perfetto? No, in 57 anni? No, io non l'ho plasmato, siamo, diciamo, cresciuti insieme. Io non ho cioè ho potere di vita e di morte perché respira attraverso me, sicuro. Vabbè, però anche lui. Cos'è, un polmone artificiale? Lei mi faccia capire. Voglio dire... No, questo è interessante. Lei è convinta che il suo uomo senza di lei sarebbe spirato? Io credo di sì. Lo credo profondamente. E reputo che la sua intelligenza superiore mi abbia reso così felice, diciamo. Perché è impossibile che uno si inventa una cosa di queste, insomma, no? Non mi è molto chiaro il vostro rapporto, mi scusi, non perché voglia entrare, certo, visto che lei... per carità. Lui la gratifica fornendole l'intelligenza. Un amore che a cui credo ancora oggi, e siccome non sono del tutto cretina, diciamo, no, insomma, penso di capire... Anche se pensare che un uomo viva soltanto attraverso di lei è un atto di profondo e coraggioso azzardo, diciamo. Sì, però credo... Lei consideri che noi tutta questa vita l'abbiamo vissuta non solo vivendo insieme, ma anche lavorando insieme. Dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Mi viene a pensare che forse esiste anche qualcos'altro al mondo che per sempre una persona accanto dalla sera alla mattina alla sera alla insieme, mattina. Insieme scopriamo tutto quello che c'è nel mondo. Vabbè, ma io mica voglio... Mica voglio sovrapporre il mio giudizio a quello degli altri. Solo questa mattina ho aperto dicendo: donne, parlate degli uomini. Io devo parlare di quest'uomo che credo io ci sa fare troppo, che ne so, perché per io pensarla così, e guardi che ho abbastanza senso critico, non è che so una, la vita insomma... Ne avrà provati anche altri per dire questo, che lui è il migliore di tutti? Io credo di non averne trovati meglio, perché... Vabbè, però l'ha provati. C'è stato sempre questa... Cioè, come fa a fare un paragone e dire che è il miglior uomo del mondo? Io posso dirlo? No, dico per me, assolutamente. Ah, per lei? Ma per carità, è pure piccolo, bruttino, vecchio, quello che vuole, come me del resto. No, non è che è il migliore, per me dico. Vabbè, lei ha trovato quello che secondo lei, secondo la valutazione di se stessa, è il massimo a cui possa ambire. In fondo ci si trova felicemente da tanti anni, quindi ha trovato l'uomo perfetto, quindi siamo contenti per lei, ma noi in realtà vogliamo... per pura crudeltà, non per altri esercizi di giustizia o di informazione, se non quello di essere cattivi, questa mattina però solleticare le donne nei confronti degli uomini che non sempre sono all'altezza di quello che loro si aspettano. Non ti permettere! Una delle tante risse in cui gli uomini fanno capelli, si graffiano, l'ultima puntata di Buona Domenica, in cui gli uomini si battevano sul tema dell'amore omosessuale, tema degno comunque di approfondimento, ma vedere uomini così presi nel rappresentare pubblicamente, televisivamente, consapevolmente, la loro desiderio di potersi disputare la palma dei più aperti, dei più liberali, di quelli con mentalità diverse, al contrario se no di quelli che sono la salvaguardia comunque dei valori tradizionali, della famiglia. In questo circolo le donne erano completamente escluse, se non la conduttrice che dirigeva il traffico, fra uomini imbizzarriti che comunque avevano come oggetto del loro contendere la possibilità di declinare secondo varie sfumature e varie accezioni la loro virilità. No, io non demordo, sono ancora alla ricerca del mio uomo ideale. A trovarlo. Il punto è che se dipende da quello che cercate, perché se quello che volete è uno col fisico da intellettuale, il cervello da palestrato, con cui avere la tipica conversazione da casella autostradale, inserisca il bancomat, grazie, arrivederci, avete molte chance perché là fuori è pieno di uomini così. Beh, visto che il pubblico delle ascoltatrici questa mattina mi sta prendendo in giro, mi fa credere che loro vivono una perenne, felice e incrollabile storia d'amore con l'uomo perfetto, seppur brutto, racchio e schifosetto che hanno vicino da 30 anni e mai ne vorrebbero un altro, vediamo se mi aiuta Giulia Blasi questa mattina. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Giulia Blasi è autrice di Nudo d'uomo con calzino, il titolo già dovrebbe essere comunque un preludio sufficiente ad appagare la mia crudeltà, altre imperdonabili gaffe del maschio sotto e sopra le lenzuola, Einaudi stile libero. Giulia, tu condividi il punto di vista di questa ascoltatrice, ti ci vedi fra una trentina d'anni con quest'uomo accanto che è sempre lo stesso, che ti ha reso felice, che tu tieni in vita con il tuo respiro e lui ti gratifica con la sua intelligenza? Oh mio Dio, io non voglio entrare nella vita privata dell'ascoltatrice che abbiamo sentito prima. Eh no, invece la questo sua descrizione bello. Mi sembrava codipendenza più che amore, però diciamo che non pretendo che nessuno respiri attraverso di me e io non voglio respirare attraverso nessuno, però quando in una coppia le persone si guardano e quando si vedono veramente perché si vedono come persone, per cui è molto difficile che una donna che sta in una coppia ti dica il mio compagno è una persona terribile, al massimo ci si sfoga sugli ex. Beh, diciamo, devo dire che però... nella mia modesta esperienza ogni tanto me lo sento dire io, quindi se è difficile sono contento per gli altri, ma sono quelli, trovo, i gesti d'amore più concreti, l'ammettere pubblicamente la schifosezza del proprio compagno. Non lo dico questa mattina, potrei fare domani un'altra trasmissione e porre il problema sotto un altro punto di vista, ma visto che sono spesso così loquaci le donne nel raccontare i limiti del genere maschile, non capisco perché quando sono sollecitate invece sono così resti a farlo, non farti vedere il santino della loro felicità. Prendi fiato, Giulia Blasi, preparati, si preparino anche le ascoltatrici, perché prevede una seconda parte movimentata. 800 24 00 24, parlate senza reticenza dei vostri uomini, fatelo ora, se no non fatelo mai più. Melog 2.0. A mio avviso all'improvviso le donne oramai sono anonime. All'inizio, quando sono giovani, ragionano con l'utero, pensano esclusivamente ai soldi, ad avere la felicità. Poi si accorgono che hanno sbagliato tutto della vita, inseguono degli schemi nuovi, vanno in palestra, vanno in piscina, però per loro ormai è troppo tardi, perché gli uomini, quelli veri, si sono già sistemati e a loro non rimane soltanto che gli scarti, e poi si lamentano e dicono che gli uomini veri non esistono. Io vorrei solo dirgli che gli uomini veri esistono e che sono già impegnati e che loro hanno sbagliato all'inizio. Ecco, prendete e portate a casa. Giulia Blasi, nudo d'uomo con calzino, stile libero in Audi. Tu hai fatto una rassegna di particolari sgradevoli dell'universo maschile. Vediamo se possiamo riportare su un piano di accettabile coerenza con un modello corrente il modello maschile che viene idolatrato dalle tante ascoltatrici che fanno a gara a scrivermi per parlarmi delle meraviglie del compagno che hanno accanto. Beh, dai, ne avevamo un fulgido d'esempio in segreteria un attimo fa, insomma, l'uomo che crede di aver capito le donne e di poterle giudicare in blocco come... Sì, parla delle tre o quattro, unico, delle tre o quattro ha conosciuto lui, gli sembra che quello sia il campione giustificato. Frequenta le donne sbagliate o forse le guarda con gli occhi sbagliati, però comunque mi sembra proprio un uomo che si arrocca moltissimo sulla sua superiorità culturale di non portatore di utero, ecco, mettiamolo così. Quello è un uomo sgradevole. Nemmeno temporaneamente, facendoselo prestare da qualcuno, certo. Sì, sì, effettivamente è così. Come le donne sbagliano nel giudicare gli uomini come blocco, così gli uomini sbagliano moltissimo nel disprezzare le donne come blocco. Beh, tu hai fatto un'analisi dettagliata. Proprio gli scarti. Ecco, diciamo, tu hai scritto un libro dove in copertina c'è un uomo con i pedalini corti, con le scarpe con i lacci, mutande schifose, boxer con i cuoricini, camicia azzurra, si prevede che sopra metterà una grisaglia. Già hai mostrato il peggio del peggio della mascolinità contemporanea. Dacci qualche esempio, qualche assaggio, tacendo il capitolo delle missioni intime purulente dei maschi che non me lo fanno passare per radio. No, infatti, diciamo che tutto il libro è una compilation di uomini che non ci capiscono niente. Che hai conosciuto? Per cui, no, che non ho conosciuto io, non è roba mia. Io sono stata non solo molto fortunata, ma non avrei avuto nella mia breve vita come donna semi-accoppiata abbastanza materiale da farci un libro intero. Oltretutto le cose mie mi annoiano moltissimo. Perché tu sei stata confidente delle donne. Sono andata in giro a chiedere... Cioè, ho detto, devo fare un libro sugli errori sessuali degli uomini. Avrete storie da raccontarmi? Per questo dico che le donne si confrontano volentieri sugli ex. Perché è quello che hanno fatto. Tutte avevano degli ex mirabolanti. Anche dopo che avevo chiuso il libro, saltavano fuori questi uomini meravigliosi. Uno che si era spacciato per agente segreto del SISMI. Cioè, cose bellissime, cose incredibili. Quindi diciamo, un primo dato costante sono le fandonie che gli uomini raccontano per essere seducenti. Le fandonie, ma anche le goffaggini, il non capire la persona che hai davanti, non avere nessuna considerazione della persona che hai davanti. Da fammi degli esempi concreti per farmi capire meglio. Per esempio, c'è l'uomo talmente arido da non rendersi conto che la donna che ha davanti ha delle esigenze sessuali. Lei non è in grado di comunicargliele e lui non pensa che ne possa avere, cioè suppone che lei sia semplicemente una che si sdraia e aspetta che lui abbia finito. O quello che ti propone pratiche innominabili al primo appuntamento senza capire se tu potresti essere interessata o meno. Entrambi gli atteggiamenti denotano comunque una grande superficialità nel considerare la donna l'aspetto del giusto, della giusta gratificazione fisica che una donna deve avere nel rapporto di un uomo. Sì, ma soprattutto guardare la persona che hai davanti semplicemente come una donna, quindi come un archetipo di femminilità, e guardare se stessi come archetipi di mascolinità. Con gli uomini diventano molto, molto, molto sgradevoli nel momento in cui si comprano a pacchetto la mascolinità preconfezionata che gli viene venduta. Sai Giulia, risalire agli archetipi è già un'operazione molto raffinata. Secondo me ci si accontenterebbe che abbiano una valutazione oggettiva dello status corrente del loro modo d'essere. L'archetipo sì, bello, però già richiede un lavoro di tipo cerebrale molto raffinato. Sentiamo Anna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io penso proprio che è quasi impossibile incredibile quello che ha detto adesso, la pretesa che un uomo possa arrivare a capire l'archetipo, sinceramente, non perché... No, ci si può arrivare, ci vuole sforzo, ecco, sforzarsi oggi è antitetico al nostro modo d'essere quotidiano. È prima di tutto, secondo, uno sforzo che per alcuni uomini è quasi impossibile. Cioè proprio credo che non, per alcuni uomini, per la loro modalità di essere, per la loro mentalità, è quasi impossibile neanche avvicinarsi. Ecco, parli per sé, mi piace parlare, sì, che le persone parlino delle loro esperienze, parli dei suoi. Allora, guardi, credo che per quanto io non mi sia accontentata fino ad oggi, quindi ho avuto anche l'esperienza della separazione e del divorzio, fino adesso comunque non ho trovato una modalità diversa. Su certe cose gli uomini ripetono, è una coazione a ripetere. Cioè sono, ecco, qual è l'ambito dello standard in cui si manifesta lo standard in maniera più cocente, più deludente? Beh, soprattutto quando non riescono a capire che c'è una persona, cioè oltre alla donna, oltre a tutto quello che comporta essere donna, ci sono delle esigenze, che sono l'esigenza prima di tutto di progettualità, ma al di là di quello, l'esigenza di essere capita qualche volta. Però guardi, le posso dire, signora, essere capito, il dramma di non sentirsi capito attraverso ogni tanto anche la nostra modesta condizione maschile. La stabilità è chiaro, le donne poi vorrebbero comunque poter inchiodare la persona accanto a sé per un tempo che non sia limitato al semplice incontro, però qui si apre un altro problema. Certo, però essere ascoltati, quanti uomini pensa lei che possono, che abbiano voglia di ascoltare? Questo è vero, non abbiamo voglia di ascoltare, molte volte è vero, ha ragione, fa parte dei nostri limiti, ci annoiamo, ci sembra già di sapere tutto e soprattutto vorremmo essere noi al centro dell'attenzione, quindi non, esatto, ci va di ascoltare. Esatto. Io metto sul piatto le mie meschinità di genere, non è che mi vergogno di farlo. Grazie. Giovanna. Sì, salve. Io intervenivo in merito alla discussione di prima sul fatto che non si parli apertamente dei difetti dell'altro. Io lo faccio con il mio compagno. E lo faccio anche con noi stamattina, così ci divertiamo. Sì, e la riflessione che mi avete fatto fare stamattina, a parte la descrizione iniziale di piangere davanti allo specchio, delle discussioni, mi ha fatto sorridere molto perché è quello che mi è successo in questi giorni e quindi è stato divertente. E perché piangeva davanti allo specchio? Per le litigate che si fanno, non si affrontano, i sospesi che rimangono. Io premetto, non vado dallo psicanalista. Poi lei riesce a litigare col suo uomo? Assolutamente sì. No, perché già molto, sa, molti non riescono nemmeno a litigare, si fanno la guerra fredda per decenni. Diciamo che è inutile, ma è inutile litigare, è inutile non litigare. No, litigare è bello, è divertente, poi si fa la pace. Sì, ma il discorso che faceva anche lei prima del non affrontare... Vabbè, in cosa le fa schifo il suo uomo, visceralmente, lo dica, così almeno si libera e sentirà meglio. Per il fatto che è un mammone, che io che in 7 anni ho continuato a fare la sostituta della mamma. Non si è liberato da quell'ingombro terrificante, no, della vecchia? Perché la vecchia è adorabile, però il problema è che sono stata io, non voglio generalizzare come diceva, ma sono stata io a continuare a mantenerlo come figlio. Allora lei, scusi, per accaparrarselo e farsi sposare ha finto di stare al gioco. Adesso che vorrebbe il terreno libero non si riesce più a liberare da questo ruolo. Si svecchi lei, se vuole. Io non, guardi, non voglio fare l'aspesi della situazione. Questa è la riflessione a cui mi avete portato, il fatto che devo svecchiarmi io, che sono una compagna e non sono una mammina, e che l'istinto materno non va gestito. Guardi, le do un consiglio terrificante e crudele che un uomo non dovrebbe mai dare alla donna di un altro: si guardi un po' intorno, perlomeno dia l'impressione al suo uomo mammone che lei si rende disponibile anche ad appagare qualche curiosità al di fuori del sacro recinto matrimoniale, vedrà che la mamma andrà in secondo piano. Ok. Penso che no, provi, tranquilla. Manuela, buongiorno, Manuela. Buongiorno a tutti. Io trovo che le ultime cose che sono state dette sul fatto del litigare sia una cosa sacra in un matrimonio. Se non ci fosse lo sfogo del litigare per arrivare a capirsi, ci si ferma, a un certo punto ci si ferma. Io sono sposata da 32 anni, ci siamo sposati all'età di 19, non abbiamo mai avuto un'altra storia, né io né lui. Lo dice con fierezza, ma è giusto, ha colto il fiore del suo candore e lo mantiene integro in tutti questi 30 anni. Sì, tutti e due. ne ha certezza pari. Matematica che questo sia condiviso anche da suo marito? Sì, sì, sì, certamente. Noi ci sentiamo telefonicamente decine di volte al giorno, non riusciamo a stare uno senza l'altro, siamo cresciuti insieme. Ci siamo modificati insieme, stiamo invecchiando insieme, siamo stati prima ragazzini proprio, abbiamo avuto il primo figlio che non avevamo 20 anni, siamo adesso nella condizione di nonni, abbiamo accudito i genitori che morivano, abbiamo traslocato diverse volte, cambiato città, abbiamo avuto storie diverse, interessi diversi, però complementari. Perciò abbiamo questa vita felice dove ci ritroviamo ogni momento. Io so che ho sempre una spalla su cui poggiare, ho sempre la sua disponibilità e lui sa che io ci sono sempre. Veramente, signora, mi ha ammutolito la felicità della sua vita e sarà per me un modello da perseguire nel poco tempo che mi è rimasto da vivere, ammesso che io possa espiare comunque tutte le manchevolezze, le fughe, le uscite dall'ordine che hanno inquinato così tanto la mia coscienza da pensare che una vita così sarebbe per me tristissima. Melog 2.0. Tutti gli uomini carini che incontro sono sposati. Alcuni sono alla ricerca di un rapporto che vada oltre la monogamia. Poverini, hanno bisogno dei loro spazi. Oppure sono stanchi di avere i propri spazi, ma non vogliono impegnarsi. Oppure, ancora, vogliono impegnarsi, ma hanno paura di diventare troppo intimi. E quelli che vogliono diventare intimi, a me non piacciono. Domanda, cosa devo fare? Pensateci! Grazie. Giulio Blasi, nudo d'uomo con calzino. Vediamo se riusciamo ad aggiungere degli elementi, perlomeno non voglio dire a contrasto, ma a complemento, da queste zuccherose immagini di felicità perenne che ci vengono dal campione medio del mio pubblico femminile. Abbiamo l'uomo che sta con la donna da moltissimo tempo e improvvisamente scopre che ha delle esigenze sessuali diverse da quelle che aveva all'inizio del matrimonio. Mettiamo un medio matrimonio 30-40enne e improvvisamente il coniuge maschio scopre lo scambismo. Questa è una delle storie che ho raccontato nel mio libro, che è tratta da esplorazioni di forum di scambisti. Improvvisamente riviene, dopo essere stato per anni a fare il barbecue insieme, a fare le vacanze assieme, ecco, a decide di farlo con altra gente contemporaneamente, quindi si trovano nelle case di campagna, fanno il barbecue, fanno la parmigiana di melanzane e fanno sesso. Sì. In 4, 5, 6. Beh, è una maniera per massimizzare il proprio capitale affettivo alla fine. Sì, il problema subentra quando lei non è totalmente investita in questo nuovo cambiamento, cioè, nessuno, impresa, ma non cioè lui vorrebbe la moglie del suo amico, lui vorrebbe la moglie del suo amico, ma nessuno vuole la sua, questo è il problema. No, peggio ancora, quando lui decide che fare sesso con sconosciuti o con altre coppie di sconosciuti è meraviglioso e lei si accoda perché non ha il coraggio di dirgli vabbè, ma vai sulla provinciale come tutti quanti. Quindi si accoda a questa cosa per essere coinvolta e allo stesso tempo però non è completamente convinta, per cui lo fa un po' a mezza voglia con risultati tragicomici e un po' tristi anche, diciamo che mettendosi nella prospettiva di lei non è il massimo. Cioè è costretta a innominabili pratiche che non... Non cui proprio non... costretta, ma diciamo semiconsenziente, perché si capisce che non è la sua dimensione. E ecco, poi tornano, diciamo, a casa... Lo scambismo richiede un grande entusiasmo. Tornano a casa e non hanno il coraggio di guardarsi in faccia. O peggio, lei comunque accetta questa nuova condizione del vivere, ma allo stesso tempo il suo cervello è ancora quello di una signora di 50 passa anni con figli che deve ancora in un certo senso finire di crescere, con nipoti che non arrivano, con ricette che non riesce a padroneggiare, per cui la sua testa è dappertutto meno che in questo nuovo ruolo di pornostar casalinga. Quindi una fuga domestica condivisa a senso unico. Poi andiamo avanti. Poi per esempio io devo sempre scrutare il mio indice perché mi vengono male. L'uomo troppo ordinato, perché noi ci lamentiamo sempre del disordine dei nostri compagni, del fatto che non puliscono abbastanza, che non collaborano in casa, ma quello che piega i pantaloni prima di venire a letto o che non si toglie le mutande fino all'ultimo minuto è ancora peggio. Cioè, l'ossessivo compulsivo in una coppia ammazza qualunque forma di erotismo, perché l'eros è disordinato, maleducato, un po' zozzo, brutto. Non è pulito e ordinato l'eros, nemmeno nei racconti rosa è pulito e ordinato. Esiste, diciamo, un difficile punto di equilibrio. Da una parte l'accusa di rozzezza, di poco igiene, di poca sensibilità, e d'altra parte l'ossessività nel rappresentare un modello di perfezione, molte volte diventa anche un modello a tutti gli effetti. Mi capita a me di dire in famiglia: guarda come è ordinato il mio armadio rispetto al tuo, guarda come sono pulite le mie scarpe rispetto al tuo, guarda il mio guardaroba. C'è gente che mandi in bestia una donna più di questo, peraltro. Lo so, lo immagino, ma infatti... pesca proprio nello stereotipo antico della donna che deve essere regina della casa. Sono le nuove donne, quindi quelle dai 20 anni in giù, che adesso se ne fregano, non sanno cucinare, non puliscono, escono, fanno come facevano gli uomini prima, mentre ancora le ultra trentenni del mio giro generazionale vedono con orgoglio il fatto di avere una casa presentabile. La casa è un po' lo specchio della nostra anima. È che noi non teniamo d'occhio Giulia, quelle che sono le generazioni emergenti, che poi arrivano velocissime, sono quelle che oggi hanno 15, 16, 17 anni, che saranno a trattare, come siamo noi in questo momento, il problema fra una decina d'anni circa. Chissà quale sarà il mondo che rappresenteranno loro. Sentiamo un po' di uomini, però. Matteo. Dio mio, quest'uomo nemico. Mi pare di capire che sta emergendo questo aspetto. Io, infatti, si scade spesso poi nelle generalizzazioni. Scusami, Nicoletti, se mi sono introdotto già sull'argomento. No, introduciti, siamo qua per parlare di introduzioni proprio. Ti conosco da una vita, perché ti seguo moltissimo da quando parlavi per radio, da sempre. E ti apprezzo molto per quello che... Sì, ma va al punto, dai, parla degli uomini. Il punto, cioè, al di là di questo, dovevo chiedere scusa perché mi sono introdotto quasi arrabbiato. Ma perché io ho una percezione della rabbiatura molto più virulenta. Io suggerirei alla signora, la scrittrice, di cui non ho avuto il tempo di conoscere il nome, perché Giulia Blasi, di chiedere ad un po' di uomini esattamente chi sono le donne, perché questa per me è omofobia pura a tutti gli effetti, soprattutto quando si scade nelle generalizzazioni. Io le parlo di me così personalmente, insomma, uomo che ha superato la sessantina. Androfobia, diciamo, che forse è più esatto il termine. Scusi? Androfobia, l'omofobia è un'altra cosa. No, è paura dell'uomo. Sì, la paura dell'uomo, come si chiama? Androfobia, diciamo, l'ho inventato io adesso, ma funziona meglio. L'omofobia oggi ha un'accezione diversa. Ah, d'accordo, comunque si chiamasse come si vuole, grazie del suggerimento. Però è così a tutti gli effetti, perché io non mi identifico nelle generalizzazioni. Sono un uomo che ha avuto un matrimonio alle spalle con due figli, una convivenza con un figlio adottivo, e da 5 anni separato ne ho conosciute. Passo, litigo tutti i giorni con mia figlia, che è quarantenne, la quale mi dà del Don Giovanni senza che io ne abbia vocazione, perché ho conosciuto fisicamente, personalmente, totalmente delle donne che sono androfobiche a tutti gli effetti. Vabbè, però se l'ha conosciuta, ha avuto modo di avere questa percezione dopo averle conosciute, quindi un po' Don Giovanni magari lo è stato. No, perché rifuggo da chi non dialoga, parola di cui si abusa in ogni istante, rifuggo da chi non coniuga le diversità, perché grazie a Dio è la diversità quella che attrae, ma va coniugata, rifuggo da chi non ti fa neanche parlare. Questa è un'esperienza finita ieri, con una donna che è fisicamente splendida sotto tutti gli effetti, acculturata e non poco, ma soprattutto aggressiva al punto in cui ti rifiuta letteralmente, voglio parlare, no, perché hai tempo perso, il mio... Beh, le sei concessa fisicamente questa donna? Sì, amore. Assolutamente. E allora non chieda di più, non può pensare di aver tutto. No, non crede, perché io sto cercando e cercavo in lei la donna ideale, perché fisicamente... Ma quella donna era sufficientemente appagata dal fatto di avere con lei un contatto fisico, amoroso, sensuale, si accontenti, non possiamo avere sempre la totalità. Sentiamo, chiudiamo finalmente con Enrico, che è l'ultimo della nostra lista. Nicoletti. Buongiorno. Hai pochi istanti per concludere, Enrico. Istanti. Grazie, mi fa piacere che mi dai del tu, perché c'è qualcuno che dando del tu si offende. Allora, io dico che la signora su tante cose sbaglia. Il corpo di una persona parla, quindi il corpo di una donna ancora di più. Se uno lo sa ascoltare, è impossibile che non riesca a capire che cosa vuole dal punto di vista sessuale. Cioè, lo riesce a capire per forza. Io sono uno di quelli che mette a posto i calzoni, fa la piega, alla sera si pulisce le scarpe, si pulisce e resta lì. È chiaro che dopo, nella famiglia, dopo tanti anni, magari al limite non c'è neanche più niente, però non è neanche così come la mette la signora. Lei è andata a cercare proprio il peggio. Io vivo in Romagna, no? In Romagna si dice che c'è un posto dove ci sono gli scambisti. È un giornalista inglese, un certo Farrell, dice che ormai è impossibile. Ma se uno va a vedere, al massimo ci sono due macchine. Più di due macchine che fanno gli scambisti non ci sono. E poi ha associato il barbecue, diciamo così, a quello sono stato io, l'ho tirato fuori io per prima, colpa mia. Quella del barbecue, ma sì. Io vendo i barbecue e io penso che attorno al barbecue si debba coltivare l'amicizia vera. Quelle sono depravazioni, Nicoletti. Ma io capisco, ma guardi, è simpatico il suo intervento finale e qui ci lasciamo. Però non difenda d'ufficio tutte le categorie in cui lei è stato toccato, la regionalità, il barbecue, la possibilità di piegare i pantaloni e forse anche, non so, la possibilità di avere qualche desiderio, qualche fantasia oltre le regole, perché siamo qui per ragionare, per scherzare. Poi la trasmissione è finita, adesso andiamo a casa e siamo tutti contenti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.